Sopra per dimma pace fonna, punta di cima ma pace. Bocca cavata non abbonna, non so si porta in me. Ora si chiama non risponda, papà di spietto a me. Anima già così, panama cuore. Ma già la stamma io, manco per ora. Ma fa paura, campa con te, sempre con te, se non morì. E già di cima fa parole amare, io bene può campare come respira. Mania pura tu, poi s'ammora. Prima c'è così, ma non va fuori. Amore, venimmo già così, panamore.